Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera, buonasera ai nostri ascoltatori e buonasera a Lorenzo Binismaghi. Buonasera. Lorenzo Binismaghi è autore del libro Morire di austerità, democrazie europee con le spalle al muro, edito dal Mulino. Lorenzo Binismaghi, lo saprete, è stato membro del comitato esecutivo della Banca Centrale Europea dal 2005 al 2011, ora è Visiting Scholar all'Università di Harvard e all'Istituto Affari Internazionali. In questo libro, come dice il titolo, Morire di austerità, un titolo molto molto forte, si fa il punto sulla crisi attuale, su perché si è arrivati all'attuale situazione in cui le politiche di austerità vengono messe sotto accusa perché aggraverebbero una crisi globale che è nata, come tutti sappiamo, tra il 2008 e il 2009. Allora, questo libro, professor Binismaghi, parte dalle politiche che si sono state compiute all'interno dei paesi dell'Unione Europea con una critica abbastanza forte. Ma sì, in realtà tutti sappiamo che queste politiche di aggiustamento fiscale attuate soprattutto dal lato delle entrate poi portano a una riduzione del PIL, della produzione e dunque un rischio di aumentare il debito rispetto al PIL e dunque rischia quasi di aggravare la situazione. Ma il problema è perché si fanno queste politiche, come mai alla fine governi e parlamenti attuano queste politiche e un po' troppo spesso si dice anche in Italia perché ce lo impongano da fuori. In realtà queste politiche vengono fatte perché si aspetta troppo tempo per adottare le riforme necessarie a far crescere l'economia, si aspetta e si rinvia perché sono decisioni difficili, fin quando poi si perde l'accesso ai mercati finanziari, cioè fin quando i mercati finanziari poi non sono più disposti a finanziare i governi. E a quel punto lì, di fronte all'emergenza, con le spalle al muro, la cosa più semplice e più rapida da fare è quella di aumentare le tasse e di fare l'austerità. Dunque l'austerità è un po' una scelta che si fa non avendo fatto tutte quelle altre che bisogna fare prima. La critica è quindi più su quelle scelte che sono state fatte prima della crisi che non durante la crisi, perché prima della crisi, lei lo dice chiaramente, si è sovrastimato o forse si è sperato che la crescita potesse proseguire anche in futuro, cosa che poi non si è avverata, e l'aver mancato di fare le riforme strutturali negli anni 2000, prima del 2008, ha provocato poi di aggravare la situazione. Quindi riforme strutturali sul fronte del lavoro, delle pensioni, sul fronte dei conti pubblici. E l'Italia, professor Binismaghi, forse è quella che ha risposto meno a questa necessità di riforme. Beh, infatti lo vediamo, che l'Italia è il paese che dal 2007 a oggi è quello che ha avuto la recessione più forte, con l'eccezione della Grecia in Europa. Gli altri paesi che hanno affrontato la recessione più prontamente, con misure più rapide, ma che anche prima della grande crisi avevano adottato le riforme, quei paesi, in particolare quelli nord Europa, hanno sofferto molto di meno e oggi si trovano ad un livello di prodotto che è sullo stesso livello di quello prima della crisi, con la disoccupazione addirittura più bassa nel caso della Germania. Il non aver fatto le riforme prima della crisi ha posto l'Italia in una situazione di grande fragilità al momento in cui la crisi globale è scoppiata. Certo, e guardare al passato è certamente utile per non ripetere gli errori del passato, però quello su cui possiamo intervenire è solamente il futuro. Allora, guardando in avanti, professor Binismaghi, lei nella conclusione del suo libro, ricordo, Morire di austerità, democrazie europee con le spalle al muro, parla di questa unione politica potenziale. Deve essere questa la strada che i paesi europei possono intraprendere per affrontare la crisi attuale? Ma sicuramente bisogna fare dei passi avanti nell'unione politica per decidere insieme le misure per far fronte alle grandi sfide di questo nuovo mondo globale, che sono soprattutto sfide che riguardano i giovani, l'occupazione. Però questo riguarda anche la capacità dei singoli paesi, non solo dell'Europa, di adottare delle misure coraggiose per aiutare chi sta rimanendo indietro in questa grande sfida della globalizzazione. E dunque vuol dire grandi riforme e grandi cambiamenti. Il dibattito politico in Italia purtroppo invece sembra un po' sempre legato sulle stesse questioni: aumentare questa tassa, ridurre quell'altra. Si guarda al sintomo ma non si cerca di capire che ci sono delle cause molto più profonde di questa crisi che vanno affrontate in modo drastico. Ecco, però c'è un problema che lei mette in rilievo nel libro, che è quello della legittimità democratica, cioè della necessità che i governi, che i partiti che sostengono il governo abbiano il consenso popolare, e avere il consenso popolare è molto difficile, soprattutto in fasi come queste. Quindi questo problema della legittimità democratica è un problema che può essere risolto solo con grandi visioni, con grandi prospettive, con capacità di dimostrare che si guarda al futuro con una speranza costruttiva. Ma non c'è dubbio, sicuramente date le difficoltà politiche del nostro paese, avere dei programmi di lungo periodo è molto molto difficile, per questo io ritengo che sia utile avere un programma di risanamento e di riforme di lungo periodo, magari concordato con l'Unione Europea, magari anche in cambio di un sostegno finanziario, di un aiuto che può venire anche dalla Banca Centrale Europea, ma un programma che poi leghi le mani ai partiti, ai governi per 2, 3, 4 anni, anche se ci fossero altre elezioni, un programma di riforme profondo che ci riporta sui livelli degli altri paesi. Ecco, lei ha citato la Banca Centrale Europea, in cui appunto lei ha operato dal 2005 al 2011. In questa fase in cui è messa in crisi un po' la stessa immagine dell'euro, della moneta unica, c'è un po' di preoccupazione nella sede della Banca Centrale Europea? Ma la preoccupazione è che avendo fatto una politica espansiva che ha portato i tassi di interesse sui livelli, e forse c'è ancora qualche margine di manovra per ridurre ulteriormente, ma il senso di preoccupazione è che questa riduzione dei tassi poi non si trasmette in tassi più bassi poi per le famiglie e per le imprese, perché c'è un sistema bancario imbrigliato, ci sono delle difficoltà nella trasmissione della politica monetaria, e questi però sono problemi che possono essere risolti solo a livello nazionale, a livello locale. Ecco, c'è forse anche un po' di amarezza del constatare che di fronte a una crisi, che è anche una crisi strutturale, non si può affrontare appunto questa crisi solo con strumenti congiunturali. La politica monetaria in fondo è uno strumento congiunturale, la crisi strutturale, per esempio lei cita molto bene nel libro il tema dell'invecchiamento della popolazione, che è un cambiamento strutturale molto rilevante, richiede altri interventi, e in fondo una banca centrale questi interventi non può certo fare. No, però è stato comodo spesso scaricare sulla banca centrale le responsabilità di problemi, e fa comodo dire ecco, è la banca centrale che deve risolvere tutti i problemi, ma la banca centrale, la politica monetaria può solo aiutare a guadagnare un po' di tempo, ma se quel tempo non viene usato per appunto mettere in piedi quelle riforme importanti che il nostro paese ha rimandato per tanti anni, alla fine di quel tempo ci si ritrova esattamente con gli stessi problemi e molto tempo perso invece di averlo guadagnato. Ecco, guadagnare tempo, questa è certamente una cosa importante, però il tempo comunque passa, il tempo comunque richiede delle scelte. Ecco, in questa prospettiva, come può aiutare la moneta unica, come può aiutare il sistema che l'Europa ha messo in piedi ad affrontare positivamente la crisi invece che a esserne un ostacolo? Perché in fondo adesso l'Italia deve pagare un euro a un prezzo più alto di quello che lo paga la Germania, quindi in fondo è un elemento di ostacolo. Come invece potrebbe diventare la moneta unica un elemento propulsivo per la crescita dei paesi che hanno più bisogno della crescita come l'Italia? Certo. Beh, diciamo, l'euro ha sicuramente evitato in questo periodo di crisi tutti quegli attacchi speculativi, quelle tensioni sui mercati che c'erano state in passato sui mercati di cambi. Per certi versi, togliendo queste pressioni, si è anche un po' creato una situazione di tranquillità che ha indotto la politica a un po' addormentarsi, a non prendere quelle misure necessarie. L'euro deve passare da un'unione monetaria a una unione più politica, più economica, bisogna rilanciare il mercato unico, bisogna appunto fare tutti quei processi di integrazione che si erano fermati al momento della crisi, e ci vuole un grande coraggio, grande visione politica da parte di tutti i leader. Quello credo che nei prossimi giorni anche a livello europeo dovremmo verificare, probabilmente ci sono delle scadenze elettorali che creano dei problemi, certo. Però ci vuole un programma, una visione a lungo periodo anche in Europa. Speriamo che le scadenze elettorali possano essere anche un avvio di soluzione, e forse possiamo concludere leggendo proprio le ultime righe del suo libro. Le difficoltà del percorso possono sembrare insormontabili, ma la storia europea degli ultimi 60 anni dimostra che tali non sono. Sembrava impossibile solo 5 anni fa che l'Europa compisse i passi che è riuscito a fare durante la crisi, anche se in modo disordinato e rischiando varie volte di inciampare. Il percorso è ancora lungo, ma nemmeno gli Stati Uniti d'America sono stati creati in un solo giorno né in un solo secolo. Sono le ultime righe del libro Morire di austerità, democrazia europea con le sorelle al muro di Lorenzo Binismaghi. Quindi, professor Binismaghi, la prospettiva è comunque ottimistica. No, dobbiamo assolutamente essere ottimistici. L'Europa è il futuro dei nostri paesi, dei nostri figli. Pensare che in un mondo globale affrontare queste sfide da soli, nemmeno la Germania ci pensa, anzi la Germania credo che vuole un'unione forte, e noi italiani dobbiamo volere anche noi un'unione più forte, ma dobbiamo anche risolvere alcuni problemi a casa nostra che ci hanno impedito di svolgere un ruolo importante in Europa in questi anni. E in fondo possiamo ancora pensare che l'Europa possa essere la soluzione, sia la soluzione e non sia un problema in più. Io ringrazio Lorenzo Binismaghi di essere stato con noi questa sera. Abbiamo parlato del libro Morire di austerità, democrazia europea con le spalle al muro, edito dal Mulino, sono 200 pagine per 14 euro, così come ringrazio Peter Bescapè in regia e Luca Cremonese in redazione. Vi ricordo che tutte le puntate di questo programma possono essere riascoltate dal sito www.radio24.it. Grazie e buona serata a tutti.